Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Cinquantenne triestino accoltellato nella notte da una donna di 10 anni più giovane, pare al culmine di una lite. L'uomo è stato ricoverato, ma non è in gravi condizioni. È accaduto a Monfalcone. Nella notte anche un incidente mortale. Un uomo di 66 anni è deceduto sulla A34 all'altezza di Gradisca di Gionzo. Viaggiava in moto ed è stato urtato da un tir. Il conducente peruviano illeso, ma sotto shock. Anziano di 88 anni, residente a Udine, imbocca l'autostrada contromano e percorre 8 chilometri verso l'Austria. Fermato il traffico al confine di Stato, bloccato, l'uomo era in stato confusionale. L'abitudine di bere per ubriacarsi dilaga in Friuli Venezia Giulia. Nel 2022 i cosiddetti binge drinker rispetto all'anno prima sono aumentati più della media italiana, quasi triplicate le donne, sono più dell'8%. Nel primo trimestre del 2024, 71 locali sono stati multati a Trieste per occupazione abusiva di suolo pubblico, 22 sequestri in negozi per prodotti in vendita non in regola con le norme europee. Continua la missione istituzionale del Presidente della Regione negli Stati Uniti. Tra gli appuntamenti principali, il forum economico sulle possibili partnership con imprese innovative della Regione. Il 22 aprile è la giornata nazionale della salute della donna, già partite in tutta la Regione. Iniziative per promuovere l'informazione, la prevenzione e le cure, gli eventi nel Pordenonese. Le 12:31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. In apertura alla cronaca, con un episodio accaduto nella notte a Monfalcone, dai contorni ancora da chiarire. Come avete sentito dai titoli, un uomo sarebbe stato colpito con un coltello da una donna al culmine di una lite. Il servizio ha riportato ferite in 3 diverse zone del corpo che gli sono state inflitte questa notte intorno alle 3, forse con un punteruolo, forse un coltello. Il triestino cinquantenne che questa notte è stato aggredito a Monfalcone in via Terenziana. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata una triestina di una decina d'anni più giovane, probabilmente convivente nella villetta a un solo piano, presa in affitto da pochi mesi. Le ferite non sono gravi, l'uomo da subito è stato ricoverato in codice giallo e quindi non in pericolo di vita e l'ospedale di Cattinara ha già trasferito l'infortunato all'ospedale di Monfalcone. Adesso però c'è da capire se la lite scoppiata tra i due avrà un seguito per vie legali, perché la donna, che in un primo momento aveva parlato di una presunta violenza, ha poi sollevato difficoltà quando si è trattato di verificare le circostanze. D'altra parte, un vicino di casa ha raccontato di aver sentito una donna gridare e chiamare soccorso proprio intorno all'orario in cui è avvenuta l'aggressione e la scientifica questa mattina si è soffermata a lungo sul posto, anche nel giardino retrostante la villetta in cui è accaduto il fatto. I due, come spiegano fonti investigative, sono già noti alle forze dell'ordine, sia per precedenti non gravi con la legge, sia per questioni legate ad abuso di sostanze e sia per essere entrambi di comportamento molto rissoso. Circostanze di cui i vicini che vivono negli edifici a fianco della villetta non sono a conoscenza. Non si tratta di un quartiere degradato e la via non è nota per rumori o disordini notturni, a parte qualche occasionale schiamazzo in un locale pubblico in fondo alla strada. Monfalcone, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella notte anche 2 incidenti, uno è mortale, un uomo di 66 anni, IT, le sue iniziali, è morto sull'A34 in direzione Villesse all'altezza di Gradisca di Gionzo. Viaggiava a bordo di una motocicletta ed è stato urtato da un autoarticolato con targa spagnola ed è morto all'istante. Sull'istante illeso il conducente del mezzo pesante, un cittadino peruviano rimasto sotto shock. A Bevazzana, nelle prime ore del mattino, un'auto è finita in un fosso, la persona a bordo è stata portata in elicottero all'ospedale di Udine con diversi traumi e in stato di ipotermia. La polizia di Udine ha rintracciato 2 latitanti all'estero. Il primo arrestato è un cittadino kosovaro di 40 anni che deve scontare 2 anni e 2 mesi per il furto di una cassaforte dalla sede di un'attività imprenditoriale a Pavia di Udine nel settembre del 2011. L'uomo, con dei complici rimasti ignoti, aveva forzato una porta di accesso all'immobile e con un muletto aveva portato via la cassaforte dove c'erano 800 euro. Si Si era anche impadronito di due mezzi di una ditta adiacente alla prima, dandosi poi alla fuga. Il secondo arrestato è un 24enne cittadino marocchino, residente con la famiglia di origine in un comune della Bassa Friulana. Deve scontare 5 anni e 4 mesi per una rapina ad un cittadino italiano che aveva afferrato per il collo con una mano, costringendolo a consegnargli il telefono cellulare e successivamente sferrandogli un pugno al viso a farsi consegnare anche il denaro che aveva con sé. Un uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia sull'autostrada A23 dopo aver percorso contromano 8 km in direzione Austria, ma sulla corsia che porta verso Udine. L'allerta è scattata intorno alle 13.30 di sabato con le forze dell'ordine che hanno bloccato il traffico al confine di Stato in attesa che il conducente in contromano fosse fermato da una pattuglia della polizia locale, della polizia stradale di Amaro. Si tratta di un italiano di 88 anni, residente in provincia di Udine, in evidente stato confusionale. Secondo una ricostruzione, dopo aver fatto ingresso per errore in autostrada, l'anziano avrebbe invertito la marcia alla barriera di Ugovizza, dirigendosi inconsapevolmente contromano sino alla galleria Tarvisio. Contro di lui è stata elevata la sanzione amministrativa prevista, oltre al ritiro della patente di guida e al fermo del veicolo per 3 mesi. Il meteo, il cielo è da variabile a coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste 13 gradi, Pordenone 14,5, Udine Gorizia 13, Tolmezzo 10, Forni di Sopra 5,5, Tarvisio e Sappada 4,5, Piancavallo 1 grado, Monte Zoncolan -1,5, Monte Lussari -2,5, Lignano e Grado 12,5. E queste le previsioni a cura dell'ARPA. Oggi pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso possibile, qualche rovescio o isolato temporale, specie sulla fascia prealpina. Temperature sotto la norma del periodo. Per domani cielo in genere poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio maggiore nuvolosità. Cambia il peso della condotta sul percorso scolastico degli studenti delle scuole medie superiori. Il Senato ha dato via libera al disegno di legge Valditara. Se il testo del ministro dell'istruzione sarà approvato anche dalla Camera, basterà un 5 in pagella per essere bocciati alle medie, mentre un 6 alle superiori richiederà una sorta di esame per recuperare. Se un tempo la famiglia educava e la scuola insegnava, lo dice anche la Costituzione, oggi non è più così. La scuola è sempre più chiamata ad educare, famiglie sempre più complesse, società diverse hanno spinto da anni il governo ad introdurre sempre più obiettivi educativi nelle scuole, già nel 2008-2009 con l'introduzione dell'insegnamento di cittadinanza e Costituzione, poi nel 2019 si è passata all'educazione civica che è diventata disciplina e ora con il disegno di legge Valditara, passato in Senato, andrà alla Camera, la condotta diventa vero e proprio voto, addirittura se non raggiunge la sufficienza determina la bocciatura e questo vale sia per la scuola secondaria di primo grado che di secondo grado, quindi medie e superiori. Roberto Benes, dirigente dell'Istituto Comprensivo Margherita Hack di Trieste, con 700 ragazzi ed è stato anche per molti anni formatore, si è occupato proprio di valutazione. Le chiediamo, lei è d'accordo con questa riforma, se così sarà, se passerà alla Camera? La riforma può essere una riforma molto interessante se inserita in un quadro complesso in cui le scuole avranno delle misure di supporto, delle rubriche di valutazione per valutare il comportamento e se il comportamento viene inserito in un'ottica di soft skills che devono essere raggiunti dai ragazzi. Bisogna creare un vero e proprio curriculum per il comportamento. Quali sono i comportamenti che effettivamente a volte sono borderline e non è facile valutarli? Un aspetto importante naturalmente è che, come da statuto delle studentesse e degli studenti, lo studente non può essere sanzionato per l'espressione delle proprie opinioni. D'altro canto lo studente deve essere inserito in una comunità educante in cui ci sono anche altri ragazzi e ragazze. Molto spesso vediamo comportamenti, oltre che di bullismo fisico, di bullismo inteso come allontanamento, isolamento, che creano dolore e sofferenza. Ecco, su questo sarebbe molto importante costruire un vero e proprio curriculum educativo per sviluppare i soft skills che hanno a che vedere con la relazionalità all'interno di un gruppo sociale. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Il consumo di alcol non rallenta la sua corsa in Friuli Venezia Giulia. A dirlo, l'ultima istantanea scattata dall'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità, che in occasione dell'Alcol Prevention Day, che cade oggi, ha rielaborato i dati dell'indagine Istat. Aumenta il numero di uomini, ma anche di donne che bevono per sballare, i cosiddetti binge drinkers, e in percentuale sono più numerosi qui che in altre regioni. L'abitudine di bere per ubriacarsi dilaga in Friuli Venezia Giulia. Nel 2022 i cosiddetti binge drinkers rispetto all'anno prima sono aumentati più della media italiana, quasi triplicate le donne, sono più dell'8% contro una media italiana del 3%. I maschi hanno invece superato quota 18%, 4 punti percentuali in più del 2021 e quasi 8 sopra la media nazionale. Sono i dati emersi dall'ultima indagine sui consumi di alcol in Italia dell'Osservatorio Nazionale Alcol e dell'Istituto Superiore di Sanità, diffusi oggi in occasione dell'Alcol Prevention Day. Il direttore Emanuele Scafato. I dati sull'impatto dell'alcol in Friuli Venezia Giulia dimostrano ancora una volta che è una regione ad alto rischio. Abbiamo visto moltissimi indicatori, superiore alla media e in forte crescita. Ci sono indicazioni anche che tutto questo, anche rispetto alla macroarea nord-orientale e nazionale, coinvolga vasti strati di popolazione, non solo le donne più vulnerabili, ma anche i giovani e i minori. Ma non ultimi gli anziani. Preoccupante anche l'aumento dei consumatori fuori pasto, sia tra gli uomini, passati in un anno dal 52 al 62%, che tra le donne, cresciute dal 30 al 36%, valori anche in questo caso superiori alla media italiana. Lo stesso per maschi e femmine che hanno consumato alcolici in modalità a rischio per la salute. Tra le prevalenze dei consumatori spicca il significativo aumento per entrambi i sessi degli aperitivi alcolici, sempre con valori superiori alla media nazionale, come anche il consumo di vino e birra. Ancora Scafato. L'alcol è la prima causa di morte tra i giovani in Italia per l'incidentalità stradale, ma sta incominciando a diventare una causa importante anche per l'incidenza di cancro. Bisogna incrementare i livelli di consapevolezza nella popolazione, cercando di diminuire al massimo le ambiguità. L'alcol non fa mai bene, il vino, la birra, qualsiasi tipo di alcolico, non c'è nessuna differenza. Ed è chiaro che favorire delle scelte informate per un diritto a sapere è qualcosa che i decisori politici ovviamente devono prendere in considerazione. Complessivamente tutti devono fare rete per cercare di diminuire un impatto evitabile dell'alcol a qualunque livello. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Nel primo trimestre del 2024 il nucleo di polizia commerciale della Polizia Locale di Trieste ha multato 71 locali ed esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo pubblico, 22 invece i sequestri amministrativi con relative sanzioni per prodotti in vendita ma non in regola con le norme europee o nazionali, giocattoli senza marchio CE, alimenti scaduti o senza etichetta, prodotti tessili non conformi, scarpe non in regola con le norme europee, prodotti elettrici senza indicazioni in italiano. Infine sono stati 3 i sequestri penali con denuncia di esercizi che vendevano profumi contenenti sostanze tossiche, mentre 2 negozi di ortofrutta sono stati sanzionati per non avere indicato sulla merce esposta la provenienza e l'origine dei prodotti. La missione istituzionale in corso negli Stati Uniti ha già permesso al Friuli Venezia Giulia di tessere importanti relazioni sul piano della cooperazione economica, grazie a occasioni di dialogo difficilmente realizzabili altrove. È quanto dice il presidente della regione Fedriga al termine di una giornata di incontri da parte della delegazione regionale con diverse realtà americane, tra queste il think tank economico newyorkese J, gruppo esponenti italiani, ma anche la National Italian American Foundation e la Canadian Italian Business and Professional Association, con le quali la regione ha firmato un accordo di collaborazione. Tra gli appuntamenti principali cui parteciperà la delegazione, il Forum Economico Opportunities for Partnership in the Innovative Companies of Italy's Friuli Venezia Giulia, per stabilire relazioni di affari tra realtà americane e regionali. A concludere il calendario di eventi, il Gala della National Italian American Foundation, organizzato a New York, a cui seguirà un altro evento analogo a Washington. Roberto Molinaro, ex assessore regionale all'istruzione, con più di 30 anni di esperienza nel campo dei servizi sociali, è il nuovo presidente del CIVIFORM, che si occupa anche di minori stranieri non accompagnati. Forma oltre 700 giovani e adulti all'anno e si occupa anche di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, puntando sulla sinergia con il territorio, le associazioni di categoria e il mondo del lavoro. Una collaborazione che CIVIFORM ha intenzione di rafforzare con il rinnovato consiglio di amministrazione, del quale fanno parte anche Confindustria Udine e il comune di Cividale. E la nuova presidenza, quella di Roberto Molinaro, ex assessore regionale con più di 30 anni di esperienza nel campo della sanità, dei servizi sociali e dell'istruzione. Queste le nuove sfide del nuovo presidente. Mantenere il livello di qualità che questa struttura formativa ha sia qui a Cividale sia a Trieste, ma soprattutto anche di trovare nuove connessioni con il territorio stesso. La possibilità c'è, si tratta di anche di ascoltare molto. Civiform gestisce anche due centri per minori stranieri non accompagnati, che per Molinari devono diventare una risorsa per la comunità. L'approccio deve essere quello di dare un servizio alle comunità. Noi lavoriamo per conto dei comuni, dei diversi comuni del territorio, non possiamo essere soli, nel senso che noi possiamo fare un servizio ma le comunità vanno coinvolte. 100 minori stranieri non accompagnati a Udine e 50 a Trieste, tutti inseriti in un percorso che va ben al di là della prima accoglienza e che offre nuove opportunità di formazione e di vita. Enrichetta Zamò, responsabile del servizio di accoglienza. Dal parlarsi, dal capire quali sono i problemi e qual è stata la loro storia, riusciamo a costruire un progetto valido e anche di integrazione, cercando anche di lavorare sulle difficoltà che hanno. Cividale, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Alla Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la Fondazione Onda dedica alle donne la settimana che inizia da oggi fino al 24 aprile. Obiettivo: promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Partecipano diverse strutture della regione con incontri e conferenze. A Cividale è in programma un incontro dal titolo Menopausa e problematiche cardiovascolari nella sala conferenze in via Carrari alle 17. Alla Tisana sono previste visite ginecologiche dalle 14.30 alle 18.30, all'ospedale di Palmanova conferenze su alimentazione in gravidanza dalle 16 alle 18, mentre a San Daniele vengono offerte visite ginecologiche gratuite oggi il 19, il 22, il 23 e il 24 aprile dalle 15 alle 18. Ma vediamo cosa succede a Pordenone. Un'intera settimana dedicata alla salute delle donne, da oggi al 24 aprile, nell'ambito dell'Open Week della Fondazione Onda, con incontri informativi aperti alla cittadinanza, visite e consulenze gratuite. Negli ambulatori cardiologici dell'ospedale di Pordenone, all'utenza femminile e ai familiari che afferiscono i servizi, sono proposte informazioni per la prevenzione in ambito cardiovascolare. Alla cardiologia dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, elettrocardiogramma gratuiti per le donne tra i 45 e i 60 anni. Daniela Pavane, direttrice della cardiologia. È una linea di lavoro per la medicina estremamente importante, perché rileva delle differenze fra uomo e donna, che sono differenze non solo legate alla biologia, ma anche ad altri fattori che riguardano scolarità, fattori di rischio, stile di vita, tipo di relazioni sociali, indipendenza economica. L'attenzione per la medicina del genere femminile in particolare non vuol dire semplicemente lavorare e ad avere maggiore attenzione alla popolazione femminile, ma vuol dire anche e soprattutto cercare di arrivare a una medicina sempre più attenta alle caratteristiche della singola persona, quindi verso una medicina personalizzata. Domani in fiera a Pordenone un grande convegno dedicato alla salute al femminile e ancora incontri aperti a tutti e a tutte su menopausa, parto positivo, papillomavirus, adolescenti e contraccezione. Calendario delle iniziative sul sito web ASFO. La diabetologia offre consulenza telefonica, mentre l'unità senologica propone su prenotazione screening spontanei alle donne tra i 40 e i 45 anni. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Città a misura di biciclette. In questi giorni sono stati premiati dalla FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, 180 città che promuovono la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile. Tra queste anche Pordenone, che conferma il punteggio di 4 Bike Smile grazie al raddoppio della superficie a zona 30 e l'inserimento di elementi di moderazione di velocità, oltre ad avere patrocinato un minor numero di eventi motoristici. Ora il Comune punta ad ampliare il servizio di bike sharing, creare nuove strade scolastiche, piste ciclabili e corsie ciclabili con un sistema di marcatura delle biciclette per ridurre nei cittadini la paura dei furti. È stato presentato ieri nell'aula magna del liceo Stellini di Udine il volume I ragazzi di Piazza Primo Maggio, 12 biografie di illustri ex studenti del liceo classico della città. Un libro che permette in controluce di leggere non solo le vicende di rappresentanti dell'elite umanistica di Udine, ma anche la storia del capoluogo friulano nel corso dei decenni. Ma chi sono i ragazzi di Piazza Primo Maggio? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Purinan, presidente degli Stelliniani. Sono 12 allievi illustri della nostra scuola, non tutti ugualmente conosciuti, ci sono alcuni nomi noti, già biografati, ci sono altri nomi invece che meritano di essere scoperti. Ad esempio ci sei un neurologo, Giuseppe Calligari, vissuto tra l'Ottocento e il Novecento, c'è un indologo, Luigi Pio Tessitori, ci sono architetti come Angelo Masieri e Maria Antonietta Cestertoso, ci sono giornalisti anche, soprattutto come Licio Damiani, critico d'arte, e Gabriella Brussic, ma i ragazzi sono anche i ragazzi attuali, perché questo titolo, diciamo, vuole simboleggiare un po' tutti gli studenti, quelli di ieri ma anche quelli di oggi. E che Udine raccontano questi ritratti? Una Udine che va dalla fine dell'Ottocento ai primi del 2000, quindi una Udine che stava già cominciando il suo percorso di crescita alla fine appunto dell'Ottocento, poi accompagna il Novecento attraverso anche le due guerre, soprattutto il periodo del secondo dopoguerra, con la fase della ricostruzione, quindi con architetti, con critici d'arte, con giornalisti che si impegnano nella ricostruzione, e arriva fino ai primi del 2000 con iniziative anche rivolte alla società civile come l'Università per la Terza Età ed altre attività, ad esempio di Angela Felice in campo teatrale. Quindi una Udine che rimane sempre se stessa, ma che seguiamo proprio nel suo rinnovamento attraverso più di un secolo. Esiste uno stellinismo? Probabilmente esiste o esisteva. Possiamo dire questo, che lo Stellini è l'unico liceo classico della città, o è stato per molti anni, e ha identificato questo termine, un atteggiamento di amore per la cultura, per la classicità, fino ai limiti anche dell'elitarismo, ecco, dell'aristocrazia culturale. Però questo concetto col tempo è cambiato, naturalmente c'è un senso di appartenenza ancora molto forte a questa scuola, però i ragazzi dello Stellini sono ragazzi come tutti gli altri. Il Centro Nazionale Dati Oceanografici dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, l'OGS, ha ottenuto la certificazione UNESCO che accredita la qualità dei suoi dati. È il primo e per ora unico centro dati marini in Italia che ha ottenuto questo bollino di qualità. Un riconoscimento che ha lo scopo di migliorare la ricerca in ambito marino, facilitando lo scambio di dati e informazioni tra gli Stati membri e venendo incontro alle esigenze di chi li utilizza a scopo scientifico e informativo. Attualmente dei 101 centri dati in 68 stati, solo 11 hanno ottenuto la certificazione. Il Centro Nazionale Dati Oceanografici presso l'OGS gestisce l'archivio dati marini più completo d'Italia, comprende oltre 460 milioni di misurazioni. Il 75,8% è liberamente accessibile a tutti gli utenti e il 24% lo è previa autorizzazione da parte di chi ha fornito i dati. Ha riaperto da poco il Faro della Vittoria, uno dei luoghi simbolo della città di Trieste. Numerosissimi di nuovo i visitatori. Oggi tra questi anche una nostra troupe. Alto 68 metri, eretto tra il 1923 e il 27 dall'architetto triestino Arduino Berlam, il Faro della Vittoria, che celebra il trionfo dell'Italia nella Grande Guerra e commemora tutti i caduti in mare da quasi un secolo, illumina il Golfo di Trieste. Non solo uno strumento di segnalazione per i naviganti, il faro è sempre di più anche un'attrazione turistica, spiega il capitano di fregata Gianluca Fantin, comandante di Marifari di Venezia, il comando della Marina Militare che gestisce tutti i fari dell'Alto e del Centro Adriatico. La Marina Militare, grazie a un accordo con l'ERPAC della regione Friuli Venezia Giulia, è in grado di rendere disponibile l'ingresso per la popolazione questo faro durante i weekend. E quindi abbiamo iniziato alla fine di marzo e finiremo a novembre. E il grande afflusso di persone che sono venute a visitare il faro ci fa capire che è molto importante anche per Trieste stessa. E dire che all'inizio il Faro della Vittoria non convinceva tutti, spiega Alessandra Garofalo dell'Associazione Marinara Aldebaran. Inizialmente si pensava di rinnovare il faro di Punta Salvore, di dedicarlo alla figura di Nazario Sauro, utilizzare il sito già occupato dal Forte Cressici e di sfruttarlo come fondamenta per questo faro. Soprattutto nell'atto di compravendita, il proprietario precedente del terreno, saputo lo scopo dell'erezione del faro monumentale in memoria della vittoria italiana, tentò di far saltare l'affare. Ma come funziona un faro come quello della Vittoria? Lo spiega Marco Fantinato, responsabile dell'ufficio tecnico di Fari Mari. Il fascio luminoso è dato da questa lanterna, da quest'ottica, in cui incamera tutta la luce della lampada per creare i fasci luminosi, per dare la caratteristica luminosa che serve al navigante. Un faro, quello che si innalza sopra il lungomare di Barcola, che ha una caratteristica progettuale unica nel suo genere. Quest'ottica galleggia appoggiata su una vasca di mercurio, dove all'interno c'è un galleggiante che proprio poggia su una vasca di mercurio,